prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Come ogni martedì spazio insieme alla Caritas, l'ultimo di questa stagione, martedì prossimo è poi la festa di Sant'Antonio, giornata festiva per il territorio padovano, e con questa settimana arriviamo a concludere il percorso delle nostre rubriche settimanali. Concludiamo con la voce del direttore di Caritas Padova, Don Luca Facco, al microfono del direttore Guglielmo Frezza, a proposito di una recente esperienza che ha vissuto. Don Luca Facco, direttore di Caritas Padova, reduce da un giro a Norcia, nelle terre terremotate, dove le nostre Caritas del Nord-Est sono impegnate in un gemellaggio importante. Che situazione hai riscontrato? Ho riscontrato una situazione molto pesante, nel senso che il terremoto è stato pesantissimo e anche lungo nel tempo, e sta ancora continuando perché le scosse continuano, e questo soprattutto nelle persone fa continuamente risvegliare la paura, per cui persone che sono resistenti, perché sono tra virgolette montanari, per cui persone molto forti, ma che mostrano anche la paura e la fragilità. In questo senso c'è bisogno di una presenza non solo emergenziale, ma anche una presenza capillare nel tempo. Ecco il senso di una presenza Caritas attraverso un campo dove volontari sono presenti soprattutto a fianco delle persone, ascoltando, accompagnando, perché hanno tanto bisogno anche di ascolto e di accompagnamento relazionale. Ecco, l'esperienza, la modalità dei gemellaggi è ormai consolidata. È dal terremoto del Friuli che in questo modo le nostre chiese si sono messe a camminare a fianco alle comunità colpite dal sisma. Che tipo di riscontri trovate nelle persone e che tipo anche di esperienza stanno facendo quei volontari che decidono di trascorrere una parte del loro tempo lì? È una presenza che nel tempo si è dimostrata significativa, perché il gemellaggio dice che noi non veniamo dall'esterno come salvatori a insegnare noi, a salvare noi, a portare noi, ma ci si mette a fianco, compagni di viaggio, con l'obiettivo di valorizzare e stimolare le risorse presenti nella comunità stessa. Cioè, l'obiettivo di Caritas è fare in modo che le persone di Norcia si riattivino. Quindi io ho incontrato proprio volontari di Norcia che mi hanno aiutato a andare a conoscere le realtà più nascoste, meno servite, le persone più in difficoltà, e questo è un bel modo, cioè attraverso proprio i volontari stessi che conoscono il territorio, andare ed essere a fianco delle famiglie più in difficoltà. E poi è una presenza che valorizza proprio anche le risorse economiche, nel senso che Caritas ha scelto di essere, con gli aiuti economici, di sostenere in particolare le aziende agricole in collaborazione con la Coldiretti locale, in modo da riattivare innanzitutto l'aspetto economico, perché le aziende possono riprendere il cammino, in modo che si riprenda l'attività economica, ma soprattutto poi l'attività comunitaria. Il nostro paese ha tanti problemi, tanti difetti, però gli italiani hanno anche un grande cuore. Il problema è che ci si attiva nell'immediatezza dell'emergenza, poi è difficile continuare ad avere un'attenzione a chi sappiamo dovrà convivere forse per anni con i disastri di questo sisma. Di cosa c'è bisogno oggi e come si può continuare ad essere solidali e ad aiutare? Quest'estate ci sarà un'esperienza bellissima, che in questo campo ci saranno migliaia di adolescenti giovani che hanno dato la disponibilità ad essere presenti proprio per essere vicini. In particolare faranno cose molto semplici, che è l'animazione dei Grest durante tutta l'estate. Ci sarà la presenza di questi volontari per andare a visitare le famiglie, per cui c'è sicuramente una grande disponibilità da parte dei volontari, e lì ne hanno un grande bisogno, perché da queste persone di Norcia sentire che c'è interesse, attenzione nei loro confronti, è quello che aiuta le persone a recuperare stima, valore in se stesso e fiducia, perché ciò di cui hanno bisogno in questo momento è sentire che c'è un paese che vuole bene a questa terra profondamente ferita, ma anche capace, speriamo, di risollevarsi. Grazie al direttore di Caritas Padova, Don Luca Facco, grazie al direttore Guglielmo Frezza, che qualche giorno fa ha raccolto questa intervista. Con questo, come detto, concludiamo lo spazio settimanale istituzionale dedicato alla Caritas, in attesa di riprenderlo con il mese di settembre. Ringraziamo Don Luca stesso, tutti gli amici della Caritas, della segreteria, che ci hanno supportato in questi mesi, per questa nuova stagione della rubrica Prossimo Tuo. Ritrovate comunque dunque tutto, l'archivio delle puntate nella sezione podcast del nostro sito. Avete ascoltato Prossimo Tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.